Se l'amore è così, io mi faccio suora allora. Sono nera, la prometto a Gesù. Preferisco la clausura, suor Cornina. Sto sotto casa tu e l'ho capito qui che il whisky non è il mio drink. Stavo una favola, ma sono tutta un tratto cappuccetto rotto. Che generoso sei coi doni che mi fai, tipo quel cesto di corna. Lo lanci come un frisbee ed ogni donna è tua, ti manca solo mia nonna. Nel mio stomaco le farfalline ormai sono dei condor, sono dei condor. E mi hai dato il tuo cuore, ma il resto l'hai dato al mondo, l'hai dato al mondo. Io sono tua, ma tu sei di tutte, così è. A terra per l'ultima volta, cantami una filastrocca che fa ti chiedo perdono, non lo faccio più. Ma mica sei Gesù, voi due avete in comune che visualizzate e non rispondete. Ups, forse è soltanto un caso se ti è partito il coso. Che occhi grandi che hai, lupo, guardami mentre ti urlo. Tutta colpa delle tue mani.